Un'intervista qualsiasi nel GR3 mattina di mercoledì scorso a uno dei tanti osservatori di cose centroasiatiche che in questi giorni di guerra fanno il giro delle redazioni. Gli chiedono se c'è qualche probabilità che venga accettata la richiesta di amnistia per sé per i suoi che il Mullah Omar ha avanzato, sembra, come condizione per sgomberare Kandahar. No, risponde l'esperto, non se ne parla nemmeno. Un'amnistia a quello non gliela concederà proprio nessuno, ne ha fatte troppe e oramai ha chiuso. Allora, prosegue l'intervistatore, lo vedremo sottoposto a un qualche tipo di processo, magari internazionale. Un processo, ribatte stupito l'intervistato. Ma figuriamoci, non conviene a nessuno. Lo faranno fuori in qualche modo nel corso di un'azione militare. E senza ulteriori commenti, i due passano a discutere d'altro. Non è questo che vi ho citato un esempio di cinismo particolarmente sfrontato da parte di un qualche feroce assertore del diritto del più forte e della necessità della vendetta. I protagonisti di questo dialoghetto esemplare sono con tutta evidenza due persone per bene che si sforzano, a differenza di tanti, di dire delle cose sensate. Ma sono o vogliono essere realisti. E vogliono essere due commentatori che sanno che in questi tempi non c'è spazio né per il perdono né per il diritto, che quando parlano le armi, solo alle armi bisogna concedere la parola. E non sembrano considerare di particolare importanza il fatto che perdono e diritto solitamente si annoverano sul versante laico come su quello religioso tra i fondamenti di quella civiltà in nome della quale in teoria si combatte. Noi occidentali, stando al quadro valori che normalmente esibiamo, non dovremmo considerare con tanta tranquillità di spirito l'ipotesi di catturare un nemico e farlo fuori alla chetichella facendo passare l'operazione come un inevitabile incidente occorso in combattimento, ma da queste preoccupazioni intervistatore e intervistato non sembrano neanche minimamente sfiorati. Mi direte che con gente come il Mullah Omar o Bin Laden o simili non è il caso di farsi degli scrupoli, per non dire che sottoporvi a processo oggi come oggi sarebbe troppo pericoloso. Ma la ferocia, ahimè, resiste a ogni razionalizzazione. Anche se ce ne siamo già dimenticati, sono passate appena 2 settimane dal massacro del carcere di Mare Sharif, in cui i nostri alleati afghani, con la collaborazione, si dice, di reparti scelti americani e britannici, hanno massacrato non si sa quante centinaia di prigionieri di guerra, in barba a tutte le convenzioni di Ginevra e a tutte le norme del diritto militare di guerra. È un episodio tra i più turpi e vergognosi di quanti ricordi la storia recente, che pure di massacri di inermi non è stata avara, e tuttavia non sembra avere scandalizzato proprio nessuno, neanche questo. Anzi, mai come in questo caso gli esperti si sono dimostrati accomodanti ed equanimi. Provate a rileggere, se ne avete lo stomaco, le brevi interviste pubblicate dal Corriere della Sera un paio di giorni dopo i fatti, mi sembra fosse giovedì 30 novembre. C'è gente come un tal Giorgio Rumi, cattolico, dicono, e docente di storia contemporanea alla Statale di Milano, per cui l'unico problema sta nel rischio di un moralismo un po' strato da parte dei pochi che si sono scandalizzati. Nel senso che è inutile mettersi su una nuvoletta letterale a giudicare l'umanità che si scanna. E c'è chi, senza aggiungere a tanto, si accontenta per assolvere soltanto di un precedente. Così c'è per un certo Giovanni Sabatucci, deve essere uno storico anche lui, ma non ci giurerei, i massacri e gli stupri sono soltanto un'inevitabile conseguenza della guerra. Quando i sovietici invasero la Germania nel 1945, dice, fecero letteralmente carne da porco. Ma questa non è certo una buona ragione per dire di no al loro intervento. E secondo un Giovanni Belardelli, che insegna storia del pensiero politico a Perugia, il problema è ancora più semplice. Non sono stati gli USA a cominciare. E quanto alle atrocità dei Mujahideen, non c'è l'altra alternativa che lasciargliele commettere. Anche Paolo Mieli, un maestro a pensiero, in un'altra parte del giornale scrive che quel che è accaduto era facilmente prevedibile, ma le responsabilità dell'Occidente sono minime e comunque di risse tra soldati stranieri e civili, stupri, violenze, assassini, ce ne furono anche in Puglia durante l'occupazione alleata dopo l'8 settembre del 1943. E così via. Dicono tutti più o meno la stessa cosa. È sempre andata così, non si poteva fare altrimenti, in fondo se la sono voluta, non siamo stati noi a cominciare. Il realismo dei nostri commentatori si riduce in ultima analisi al piagnisteo con cui i bambini sorpresi ad azzuffarsi si difendono davanti al maestro. Ha cominciato lui. Una volta affermato che la colpa comunque è dell'altro e che il fine in ogni caso giustifica i mezzi, non sembra che costoro abbiano altro da dire. La dura lex della guerra li esime da qualsiasi obbligo di umanità. Nessuno si spinge a citare la sana consuetudine dei padri romani di strozzare i capi dei vinti dopo averli esibiti nel corteo trionfale, o i nomi dei tanti condottieri usi a passare a fil di spada agli abitanti delle città conquistate e a seminare sale sulle rovine, ma è evidente che una certa nostalgia per questo stile di pensiero fa da sottofondo a delle argomentazioni così sottili. Per esperti di questo genere, in definitiva, gli interrogativi morali sono soltanto delle lamentazioni ipocrite e l'unico modo di raggiungere gli obiettivi prefissi è quello di prestare orecchio alla bestia che è in noi. Un tale realismo, naturalmente, nasconde la presunzione di essere sempre e comunque nel giusto, il che vuol dire che esprime al tempo stesso il massimo dell'ipocrisia e il massimo dell'arroganza, e da esso, amici miei, dobbiamo solo sforzarci di essere ostinatamente immuni. Promise given up.